24 ore in Europa, in collaborazione con Euronet. Oggi in primo piano il monito della BCE che dice i tassi saliranno ancora e rimane alto l'allarme in Europa per il batterio killer, salgono a 30 le vittime, l'origine forse da zucchi o legumi prodotti in uno stabilimento di Amburgo. Europa sempre più vecchia, nel 2060 gli ultra 65 anni saranno il 30% e una persona su 8 avrà più di 80 anni, la stima dell'Eurostat. Bentrovati da Roberta Pellegatta, un nuovo appuntamento con 24 ore in Europa. In apertura il fronte economico. Il Consiglio direttivo della Banca Centrale Europea ha lasciato invariato all'1,25% il tasso di rifinanziamento, ma Jean-Claude Trichet ha voluto anticipare che potrebbe esserci un rialzo dei tassi già a luglio. Sentiamo il presidente della BCE. Il Consiglio direttivo della BCE ha deciso di lasciare i tassi di interesse invariati. Considerando le informazioni disponibili, continuiamo a vedere pressioni al rialzo sull'inflazione, prevalentemente legate ai rincari dei prezzi energetici e delle materie prime. I dati giunti di recente confermano lo slancio positivo della ripresa economica nell'area euro, su cui tuttavia l'incertezza resta elevata. I rischi sul fronte della stabilità dei prezzi sono in aumento. Di conseguenza, pensiamo che sia giustificata una forte vigilanza. Detto ciò, agiremo in modo fermo e determinato. Faremo tutto il necessario per prevenire ulteriori sviluppi sui prezzi che spianerebbero la strada a un aumento delle pressioni inflazionistiche. Rimaniamo determinati ad assicurare che le attese circa l'inflazione rimangano ancorate in linea con il nostro obiettivo di mantenerla al di sotto o vicina al 2% nel medio termine. La decisione di oggi sui tassi è stata presa all'unanimità. Circa le indicazioni che avrei dato pronunciando alcune parole, tra cui la nostra posizione di forte vigilanza, dico che significa che siamo in una modalità in cui potrebbe essere deciso un aumento dei tassi il mese prossimo, anche se non ci chiudiamo mai in decisioni precostituite. Sono 30 le vittime del batterio Escherichia coli. Le autorità tedesche ipotizzano dal 5 giugno scorso che alla base dell'epidemia possa esserci il consumo di germogli vegetali, di erba medica, lenticchie, fagioli, zucca e fieno greco prodotti in uno stabilimento nei pressi di Amburgo. Lo ha detto il ministro della Salute Ferruccio Fazio in un'audizione al Senato. Sentiamo il ministro italiano. La Commissione europea ha espressamente ritenuto che non è opportuno adottare nei confronti della Germania alcun provvedimento di blocco sui prodotti alimentari. Nessun paese comunitario ha adottato provvedimenti unilaterali. Al contrario, la Commissione ha stigmatizzato e chiesto l'immediata revoca della decisione della Federazione Russa che il 2 giugno ha imposto un bando sui vegetali provenienti dalla UE. Segnalo che anche il Libano e il Canada hanno imposto misure di questo genere. Nel Consiglio dei Ministri della Salute del Lussemburgo ho sollecitato 4 interventi specifici per fronteggiare questa emergenza, ma soprattutto per migliorare per il futuro il sistema dei controlli. Il primo è una verifica tecnica che il serotipo identificato possa essere stato generato da una modifica o manipolazione avvenuta in laboratorio. Il secondo punto che abbiamo ottenuto immediatamente dalla comunità europea è stato un coinvolgimento da parte dell'ufficio alimentare veterinario della comunità per la situazione in situ. A seguito di questo, la nostra richiesta, sono stati mandati a Berlino un team di funzionari della Commissione europea. Il terzo, prevedere misure precauzionali comunitari che contemplino un sistema di identificazione e differenziazione tra le sementi. Il quarto, che credo che sia di particolare interesse generale, è lo studio di un progetto normativo, quindi una norma che preveda un controllo sanitario diretto dei prodotti biologici. L'eventuale decisione in vista dell'ingresso di Romania e Bulgaria nello spazio Schengen è rinviata al prossimo Consiglio dei Ministri dell'Unione Europea. Sarà legata alle decisioni che il prossimo vertice europeo del 24 giugno prenderà sulla revisione della governance di Schengen. A preoccupare, secondo quanto riferito dal ministro dell'interno francese, è la corruzione che affievolisce i progressi che i due paesi hanno fatto sul piano tecnico. Secondo il ministro Guin, potrebbe trattarsi di un ingresso a tappe, aprendo prima le frontiere aeroportuali, poi quelle marittime e terrestri. La Russia è contraria a qualsiasi intervento ONU in Siria. L'annuncio arriva dopo la presentazione di un progetto di risoluzione da parte di Francia, Regno Unito, Germania e Portogallo. Il documento condanna il regime di Bashar al-Assad per la sanguinosa repressione ai danni delle opposizioni. Temiamo che un intervento del Consiglio di sicurezza sulla Siria possa inasprire le tensioni, ha spiegato Vitaly Kirkin, ambasciatore presso l'ONU della Federazione Russa, e essere infrainteso da quelle forze di opposizione non costruttive che, come sapete, dichiarano di volere un nuovo regime a Damasco. La Siria è ritenuta l'alleato più vicino alla Russia in Medio Oriente e anche la Cina potrebbe esercitare il diritto di veto. Adesso la borsa, chiusura positiva per i listini europei. L'apertura positiva di Wall Street rivitalizza le borse europee, che chiudono la seduta positive grazie al buon andamento del settore auto e di quello energetico. Francoforte recupera l'1,4%, Parigi l'1% e Londra lo 0,8%. Più prudente invece Piazza Affari, dove FTSE MIB e All Share guadagnano solo 0,5%. Tra le blue chip di Milano spicca così il rimbalzo della Popolare di Milano, più 3,3%, in attesa dell'aumento di capitale da 1,2 miliardi. L'istituto Meneghino cresce sulle speculazioni di nuovi ingressi nell'azionariato e recupera così terreno dopo l'oltre 35% perso da inizio anno. A BPM è legato, seppur indirettamente, anche il calo di Mediobanca, meno 3,5%. L'istituto di Piazzetta Cuccia è infatti garante della ricapitalizzazione di BPM e, in caso di inoptato, sarà chiamato a sostenere uno sforzo finanziario significativo. Ceo Condina da Radio Corp per Radio 24. Il Sole 24 Ore. In Italia l'iniziativa della Lega di raccogliere le firme per una legge popolare sul trasferimento dei ministeri al nord ha aperto un dibattito e noi siamo andati a vedere come funziona in Germania, paese federale. Quando Berlino divenne la capitale tedesca nel 1991, fu deciso che una parte dei ministeri sarebbe rimasta temporaneamente a Bonn, la vecchia capitale sul Reno. L'obiettivo era di consentire a Berlino di prepararsi ad accogliere una popolazione di funzionari pubblici e permettere una transizione morbida alla ex capitale. Oggi il governo federale sta valutando se e quando completare il trasloco. Alcuni ministeri hanno lasciato in città le loro dépendance. Qualche giorno fa il ministro della difesa, Thomas de Maizière, che ha ancora 3.000 dipendenti nella vecchia capitale, ha detto che la possibilità di un trasloco a breve termine non è tabù. La Germania, paese federale per eccellenza, ha distribuito su tutto il territorio nazionale molti enti pubblici, ma a 20 anni dall'unificazione sa in cuor suo che l'opzione della doppia capitale non può che essere provvisoria. Beda Romano, Radio 24, Il Sole 24 Ore, Francoforte. Nel 2060 gli ultra 65 anni in Europa saranno il 30% e una persona su 8 avrà più di 80 anni. Lo stima Eurostat, l'ufficio statistico europeo. In Italia gli ultra 65 anni saranno il 31,7% rispetto al 20,2% del 2010 e coloro che avranno più di 80 anni saranno il 14,1%. L'Economist torna a mettere Silvio Berlusconi in copertina dopo la celebre cover del 2001 in cui l'attuale presidente del Consiglio italiano veniva definito come inadatto a governare l'Italia. La rivista britannica rilancia con la frase, sempre in copertina, l'uomo che ha fregato un intero paese. Spezzare i legami tra la criminalità organizzata e le scommesse legali e illegali, gli agenti sportivi, gli arbitri responsabili dei club e gli sportivi con forti misure di contrasto per evitare le combine nello sport. È quanto prevede la dichiarazione scritta approvata dal Parlamento europeo che impegna la Commissione UE e gli Stati membri a salvaguardare l'integrità dello sport. Gianni Pittella, vicepresidente del Parlamento che ha presieduto la sessione, ha ricordato i gravi eventi che stanno turbando lo sport europeo anche senza fare riferimento esplicito alle vicende italiane. Il basket adesso, col nome del nuovo allenatore che guiderà l'Olimpia Milano, sarà l'attuale coach della Spagna, l'italiano Sergio Scariolo, che pure conserverà part-time la guida delle Furie Rosse, campioni d'Europa. Dario Ricci ha chiesto un parere a un ex leggendario di Milano e del basket europeo, Dino Meneghin. Il coach Scariolo è un allenatore di grande esperienza, ha fatto grande esperienza anche all'estero, anche con la nazionale spagnola, oltre che i club, quindi sarà sicuramente utile a una società come l'Armani Jeans che vuole puntare in alto, visti gli investimenti che vuole fare anche per il futuro. Quindi il coach Scariolo darà sicuramente del più, sua tecnica, personalità, sono sicuro che farà un buonissimo lavoro. È stata presentata a Roma l'11ª edizione della Guida Blu di Legambiente Touring Club Italiano. Sentiamo allora quali le località di mare del Giardino d'Europa sono state premiate. 5 vele a 14 località. Prima fra tutte, regina dell'estate 2011, ancora una volta Pollica, la perla del Cilento, in provincia di Salerno. Migliora la Sicilia, che conquista il secondo posto con l'isola di Salina e ottiene 5 vele anche per San Vito Lo Capo e Noto. Bene per la Sardegna con 4 località, Villa Simius, Posada, Bosa e Baunei. La Basilicata Basilicata entra per la prima volta nell'Olimpo con Maratea, mentre ne esce la Liguria, dove le Cinque Terre quest'anno si fermano a quattro vele, stabili Toscana e Puglia. Ma cosa fa la differenza nella valutazione della guida blu di Legambiente e Touring Club Italiano? Ce lo spiega Sebastiano Venneri, vicepresidente responsabile mare di Legambiente. C'è una serie di indicatori che riguardano la qualità del territorio, che vanno dalla qualità delle acque alla tutela e alla presenza di aree protette nelle vicinanze e quant'altro. Poi c'è tutta una serie di altri indicatori legati alla qualità dei servizi, e quindi gestione dei rifiuti, delle acque reflue, della mobilità, traffico, rumore e quant'altro. Noi cerchiamo di misurare attraverso i nostri indicatori tutto quello che può fare di una vacanza di qualità indimenticabile. Adriana Fracchia, Radio 24, Il Sole 24 Ore. È tutto per questa edizione di 24 Ore in Europa. Grazie per l'ascolto. Un saluto da Roberta Pellegatta. 24 Ore in Europa, in collaborazione con Euronet.